Italia in controluce, la politica nel tunnel. Quirinale, uno scontro a quattro, così l'abbiamo chiamata questa puntata di oggi 15 aprile 2013, e si va verso l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica che sostituirà per altri 7 anni Giorgio Napolitano. Si va verso uno scontro a quattro, a mio avviso, tra Prodi, Amato, Marini e D'Alema. Man mano gli altri candidati si stanno sfilando. A questa rosa di nomi si aggiungono anche alcuni altri bei nomi, come Emma Bonino, che tra l'altro ha vinto il referendum degli ascoltatori di Italia in controluce, e un altro nome come Stefano Rodotà, che piace molto soprattutto ai militanti del Movimento 5 Stelle. Gli altri nomi che circolano si piazzano in fondo alla classifica. Dunque, vediamo di capire. Romano Prodi può incassare i voti del PD, di Grillo, di Scelta Civica, comunque di inviso da Berlusconi, come lo stesso Berlusconi ha detto a Bari. Giuliano Amato e Franco Manini possono contabilizzare solo i consensi di una parte del PD, certamente per quanto riguarda Marini non quella di Renzi, di Scelta Civica, e possono trovare consensi anche da una parte del PDL, certamente non da Grillo. Ma Massimo D'Alema, non è un caso sia in testa delle scommesse dei bookmaker, potrebbe essere l'uomo che potrebbe prendere tutto già alla prima votazione. Sì, perché tutto questo potrebbe accadere in caso di accordo finale tra PD e PDL. Intanto nel Partito Democratico, e qui veniamo alla domanda di oggi che vi facciamo, è una guerra aperta senza esclusione di colpi, perché Bersani aveva attaccato Renzi, Renzi ha attaccato Bersani e anche Anna Finocchiaro. Anna Finocchiaro ha attaccato durissimamente pochi minuti fa a Renzi, dicendo: non mi sono mai candidata a nulla, conosco bene i miei limiti, non ho mai avuto difficoltà ad ammetterli, ho sempre servito le istituzioni. Trovo che l'attacco di cui mi ha gratificato Matteo Renzi sia davvero miserabile per i toni e per i contenuti. Questa è la replica della Finocchiaro alle dichiarazioni con cui Renzi aveva definito lei e Marini non candidabili al Quirinale. Trovo inaccettabile e ignobile, ha proseguito poco fa la Finocchiaro, venga da un esponente del mio stesso partito. E allora vi chiediamo al 349-238-6666 se fa bene Renzi ad attaccare e a in qualche modo dividere il PD, oppure ha ragione, come in questo caso, Anna Finocchiaro a rimettere al mittente le accuse fatte da Renzi. 349-238-6666, per capirne di più ci colleghiamo subito con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Come dicevi da studio, Daniele, la rosa dei nomi candidati per il Quirinale al momento i più papabili cosiddetti sarebbero Prodi, Amato, Marini e D'Alema, ma veramente questo scontro all'interno del PD sta facendo venire alla luce le tante contraddizioni nel partito di largo del Nazareno. Un Renzi contro tutti, potremmo dire. Renzi affossa la Finocchiaro, affossa Marini. A sua volta Renzi riceve le critiche di Bersani e il partito nella sua maggioranza fa gruppo attorno alla Finocchiaro nel criticare Renzi, ma Daniele, logicamente diventerà tutta una guerra dei numeri, numeri che li vorrei ricordare brevemente. Da giovedì mattina si inizierà a votare qui a Montecitorio in seduta comune, saranno 630 deputati più i 319 senatori più i 58 delegati scelti dalle regioni, in totale 1007 grandi elettori che dovranno scegliere chi dovrà guidare il gioco politico dei prossimi 7 anni. Nelle prime 3 votazioni, la prima di giovedì più le 2 di venerdì, la maggioranza è cosiddetta qualificata pari a 2/3 dell'assemblea, quindi il magic number cosiddetto è 671 su 1007, dalla quarta votazione in poi si scende a 504 voti e in questo momento Bersani da solo può contare di poter votare un proprio candidato dalla quarta votazione in poi, ovvero quindi da quando sarà richiesto i 504 voti, ma prima no, prima, come dicevi da studio Daniele, sarà necessario un accordo quantomeno con il Popolo della Libertà, e il nome che può coagulare maggiormente i voti di PD e PDL al momento è quello di Massimo D'Alema. Eh sì, è proprio quello di Massimo D'Alema, e noi abbiamo aperto con una domanda: se ha ragione Renzi ad attaccare tutti all'interno del suo partito, Bersani, la Finocchiaro, oppure ha ragione la Finocchiaro a difendersi in questo modo dicendo che è ignobile ciò che sta facendo Renzi. E poi anche un'altra domanda su questi quattro nomi, cioè Prodi, Amato, Marini e D'Alema, sarebbero questi quattro nomi su cui la politica lavora. Renzi fa bene a dire le cose come stanno, conferma che sta fuori dalla casta, dice Fiorella. Matteo Renzi ha ragione, sono di destra, ma Renzi, se si candida, avrà il mio voto, dice Massimo da Parma. Renzi è un berluschino, dice Giusi, mi fa venire i brividi. Tutta la vita con Renzi, un altro ascoltatore, quel falsario di Prodi aveva detto che non era interessato. Lidia dice no ad D'Alema, ok per Renzi, fa benissimo, avanti Renzi. Un altro ascoltatore, la guerra tra Renzi e Bersani regalerà, e questa è un'idea di Guido da Bergamo, il paese per l'ennesima volta a Berlusconi. Giuliano Amato presidente, quello che teneva a bordone il grande statista Craxi, un degno rappresentante per un paese di amebe senza dignità, dice Albino. Se vince D'Alema, un altro ascoltatore, è la vergogna ed è la fine. Non so se Renzi, il piccolo Berlusconi, sia ignobile o miserabile, sicuramente è sbagliato chi per motivi elettorali offende gratuitamente i suoi stessi compagni. Ho sostenuto Renzi alle primarie, ma sta esagerando, dice Annaiello. Spingere un carrello lo vedo come un gesto di cortesia tra amici. Renzi ha ragione, non da parte della signora Finocchiaro. Siamo tutti miserabili, dice, fa benissimo Renzi. Antonella Pescara, speriamo che Matteo riesca ad eliminare tutte le cariatidi. 349-238-6666, continuate a scatenarvi, ma sono anche le ore in cui si decide il nome del Movimento 5 Stelle. A che punto siamo dopo la querelle del weekend in cui non si capiva se si era bloccato o non bloccata la votazione? Daniele, sì, Andrea Viali. Penso, eccomi, sì, immaginavo che stessi per darmi la linea. Possiamo dire che siamo arrivati al giorno della verità per queste Quirinarie 5 Stelle, si vota rigorosamente su internet, online, e potrà farlo solo chi è iscritto al movimento prima del 31 dicembre dello scorso anno, quindi parliamo di circa 48.000 militanti, come è successo la scorsa settimana nel primo turno, un voto ripetuto due volte, lo ricordiamo, per questo attacco che alcuni definiscono presunto, comunque sia per questo attacco di pirati informatici. Dalla rosa di 10 nomi che è emersa appunto in questo primo turno, oggi è uscito quello di Beppe Grillo, e diciamo era un po' nell'aria, lo ha annunciato lui stesso ringraziando chi lo aveva votato, era nell'aria perché sappiamo che in base alle regole del movimento il comico non poteva comunque essere candidato perché ha vecchi precedenti, una vecchia condanna. Quindi ricapitolando, restano in corsa Emma Bonino, Giancarlo Caselli, Dario Fo, Milena Gabanelli, Ferdinando Imposimato, Romano Prodi, Stefano Rodotà, Gino Strada e Gustavo Zagrebelsky, questo rigorosamente in ordine alfabetico come vogliono i 5 Stelle. Si vota stasera fino alle 21, il nome del vincitore però verrà comunicato soltanto domani, e subito dopo i capigruppo 5 Stelle dovrebbero incontrare il segretario del Partito Democratico Bersani. La linea che seguiranno però l'ha già anticipata stamattina la capogruppo alla Camera Lombardi, la quale ha fatto sapere che i parlamentari grillini continueranno a votare il loro candidato per il Quirinale, anche se sarà chiaro che non ce la potrà fare, non avrà i voti sufficienti per essere eletto, e non voteranno nessun altro candidato. Quindi il dato politico è in sostanza che le uniche convergenze possibili con i 5 Stelle potranno arrivare soltanto sul nome di chi vincerà queste Quirinarie, nome che, Daniele, lo scopriremo domani. Probabilmente su Romano Prodi, come si dice in molti. Bene, grazie Andrea Viali, grazie naturalmente Vincenzo Miglietta, torniamo domani come sempre alle 13.30 per Italia in Controluce, abbiamo la pagina di Facebook, il gruppo Twitter, oppure controluce@radio24.it. Un saluto da Daniele Biacchese.